Grazie. E la dottoressa Chiazzano Romanelli ha posto due interrogativi che sono ben presenti alla nostra attenzione, interrogativi e anche problemi. Il più facile, tutto sommato, è il problema della registrazione. E già nel volume dell'85 c'erano alcune critiche fatte da me al progetto De Rosa. In realtà lo stesso De Rosa le aveva sentite, De Visu, ne avevamo discusso, ma appunto le critiche venivano al costo di questo tipo di operazione e al tipo di utilità rispetto alla necessità che comunque rimane, così come rimane per qualsiasi elaborazione al computer, di andare a vedere la fonte direttamente. Quindi non ci si può sostituire alla fonte. La cosa più interessante del lavoro del centro di Vicenza e gli stimoli che aveva fornito lo stesso De Rosa nel corso degli anni 60 e poi ancora nel corso degli anni 70 era stato proprio lo stimolo per questa fonte, ed erano le premesse che erano degli ampi studi, in realtà dei begli studi, devo dire, sopra queste fonti, e tutto il movimento culturale che è stato messo in moto proprio dallo stesso De Rosa e dal centro di Vicenza e da tutti i collaboratori del centro di Vicenza. Quindi da questo punto di vista c'è una, diciamo, sorta di continuità ideale, ma appunto è anche una notevole differenziazione, perché poi gli strumenti tecnici hanno fatto superare, credo, la stessa registrazione così come era stata impostata. E questa è una cosa che tanto la Cecilia Nubola quanto io, in quel volume sulla computerizzazione delle visite pastorali, abbiamo scritto, come abbiamo anche detto al convegno nazionale, anzi internazionale, tenutosi a Bologna da parte della rivista History and Computing. Abbiamo posto proprio questo problema, quindi questo lo teniamo come un discorso che ci sta dietro e grazie al quale siamo, credo, cresciuti tutti, ma occorre andare avanti tenendo conto che cambiano i mezzi, cambiano gli strumenti e non cambiano le domande di conoscenza restano, e quindi bisogna dotarsi delle metodologie adeguate per rispondere comunque alla medesima domanda. Da questo punto di vista vale sempre la dichiarazione fatta da Prodi in premessa al volume sulle visite pastorali, da dove si dice che non c'è alcuna ambizione da parte dell'Istituto Storico Italo-Germanico se non quella di essere una struttura di servizio, e da questo punto di vista, come struttura di servizio, si è pensato anche a questo strumento. Quello che può essere utile è un punto di raccordo di iniziative che spesso sono disperse. Io credo che in fondo sia la prima volta che gli archivisti, ad esempio, delle Tre Venezie, insieme con gli archivisti non ecclesiastici, insieme con storici e utenti degli archivi, si sono poi ritrovati a discutere di queste cose. Certo, tante iniziative sono state fatte anche nelle singole realtà, ma poi uno scambio di idee, seppure primo scambio di idee, non è mai stato fatto. Ecco, l'ampiezza del progetto e il progetto, le prospettive vorrebbero essere quelle di gli ideali sono sempre belli, poi dopo camminano con le gambe degli uomini e con i finanziamenti, ovvio. L'ideale sarebbe quello di arrivare a la costituzione di una banca dati relativa a tutta la realtà italiana. Appunto, questo appunto è l'ideale. Il pratico fatto finora è che in realtà qualsiasi realtà diocesana può, qualsiasi studioso può utilizzare lo strumento che c'è già a disposizione, perché il quanto ha illustrato Paoletti è il risultato di un programma che è stato fatto appositamente e che è a disposizione di chi è interessato a utilizzarlo nell'ambito di una singola specifica realtà, con l'unico impegno di passare anche però una copia del risultato del lavoro presso la sede trentina. Quindi da questo punto di vista è un discorso anche di servizio. Il discorso di servizio è naturalmente è accresciuto dal fatto che grazie alla fondazione, al fondo lasciato da Hubert Iedin alla città di Trento e in particolare l'Istituto Storico di Tirolo Germanico, grazie a quella costituzione originaria e poi gli interessi successivi, qui c'è un ricco apparato anche di materiale documentario e bibliografico relativo alle visite pastorali italiane e non solo italiane. Questo. Per quanto si può dire di più, direi che già l'occasione di incontro a me passa estremamente utile, grazie anche alla collaborazione della società, dell'Associazione Archivistica Italiana e poi anche all'energia spesa dal responsabile dell'archivio diocesano di Trento. Quindi abbiamo lavorato, credo, proficuamente. Un appuntamento successivo è un appuntamento a novembre di quest'anno. Novembre di quest'anno ci sarà un incontro dedicato, un seminario fra il 28 e il 30 novembre presso questo istituto dedicato alle visite pastorali. E voi direte ancora, certo, ancora le visite pastorali, ma fra storia sociale e storia religiosa d'Europa. Un antico istituto in nuove prospettive. Come vedete, la lezione di De Rosa è in questo caso ripresa e non è casuale che lo stesso De Rosa sarà presente nella tornata di discussione di un dibattito di una di queste giornate, di queste mezze giornate. Un antico istituto però. Nel senso che la storia istituzionale è in qualche modo preliminare, perché da questo punto di vista gli archivi si strutturano in relazione anche alle istituzioni, e talora succede che la conoscenza di un istituto e di un'istituzione favorisca, voglio dire, la organizzazione, la conoscenza di un archivio, e viceversa, partendo dal materiale di un istituto si possa recuperare la storia di un'istituzione, ma appunto storia di istituzioni che contribuiscono ad arricchire la realtà della conoscenza della storia sociale e religiosa del nostro paese, di cui appunto le visite sono punto importante. Una terza considerazione, in qualche modo conclusiva, mi pare da sottolineare l'importanza, io ho prima studiando la parte dell'incontro, ma anche l'importanza del dialogo fra esperienze, discipline, professionalità diverse, perché è solo nell'incontro interdisciplinare che si può andare avanti e si può procedere proficuamente, dove è chiaro che ognuno ha la propria parzialità, ognuno ha il proprio interesse specifico, ma appunto è grazie a questo che in fondo noi tutti possiamo lavorare, così come per me la storia dell'arte è una disciplina sussidiaria, per gli storici dell'arte la storia è una disciplina sussidiaria, appunto. È proprio nel riconoscimento di queste peculiarità che però, voglio dire, sia gli uni che gli altri possono poi proseguire. Io credo che nelle giornate di novembre ci sarà un approfondimento sia tecnico che di ordine generale. Una altra considerazione che mi pare utile e interessante da tenere presente e che ho sentito segnalata, mi pare una cosa giusta, opportuno studiare i modi di far circolare i materiali qui presentati. Adesso si tratterà di studiare in che modo, in che forma e se ciò è possibile, ma mi pare una esigenza da non lasciare perdere, perché appunto gli incontri sono sempre molto belli, ma quando poi producono tutta una serie di feedback reciproci, persone che non si conoscono, che si conoscono solo per aver letto qualche cosa, che portano la loro esperienza, Però se poi si riesce e si trova il modo anche di concretizzare questo tipo di esperienze, pur in forme limitate, vuol dire anche sotto forma di organizzazione di un insieme dei paper o altro, certo, vuol dire c'è qualche cosa che si sedimenta e che resta di utilità, credo, di grande utilità per tutti. La cosa che io peraltro mi augurerei è anche che questo possa essere magari un primo incontro, magari vedere se è possibile organizzarne degli altri. Anche questa mi è passata un'esigenza che ho sentito circolare in varie maniere all'interno anche dei nostri colloqui di tipo informale, che sono poi quelli migliori, quelli dove poi si combina, non dico si combina il meglio, ma si combinano appunto anche delle riflessioni molto più libere e molto più tranquille. Con tutto ciò, voglio dire, noi siamo riusciti ad arrivare alle ore 1 e credo che abbiamo tutti diritto a un buon pasto, perché voglio dire, alla fine tutti salvi finiscono in gloria.